Giro. Quando sono su, pago la tarsù. Quando sono in allegria, paghi la tia. Breve, breve, brava. Brava, breve. Compro una vocale, la A di Ancona. Siamo alla lettera D. D di Domodossola. Fiato. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene... Prova a dare la soluzione. Tari, tari, amici miei, con Imu e Yuk sono già ciuc, la tia per mia zia, la tari ci brucia i denari. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Decisamente rock per un tema che invece è tanto rock. Cara la mia Nicoletta, non lo è, sempre più incalzante questo conto alla rovescia, ma non ci riferiamo a quello per l'inizio dei mondiali di calcio e nemmeno a quello per l'arrivo delle ferie. C'è un conto alla rovescia molto meno piacevole che interessa tanti italiani ed è quello per il pagamento della TASI, la nuova tassa comunale che in alcuni casi, ma non in tutti, ha preso il posto dell'IMU e che non poteva avere un esordio più travagliato. Il quadro è stato molto confuso e fino a pochi giorni fa molti neanche sapevano ancora se avrebbero dovuto pagare. È bene provvedere per tempo. Leggiamo anche oggi sui giornali che i CAF, i centri di assistenza fiscale, continuano ad essere presi letteralmente d'assalto. Ci sono i commercialisti, molti professionisti che addirittura chiedono un rinvio. Non so se abbiamo tempo per poterlo fare, ma insomma oggi torniamo a parlare a cuore denari di TASI, cercando di aiutarvi a chiarire tutti i dubbi. 800 24 00 24. Iniziate a prenotare i vostri interventi. Sì, Deborah, la TASI, una nuova scadenza che si aggiunge alle altre, poi ci sono le bollette di luce, gas, acqua, telefono, le spese condominiali, le multe, ricordare di ricordarsi, è un impegno, diventa quasi un lavoro. E voi come fate? Quali strategie adottate? Segnate tutto scrupolosamente in agenda? Vi fate aiutare dal vostro smartphone? Vi affidate a delle app o tenete a mente e sperate che vi si accenda la lampadina al momento giusto? In altre parole, pianificate o improvvisate? Ne parleremo dopo il GR delle 12, nell'ultima parte della trasmissione, in cui avremo modo di fare una sorta di check-up della nostra memoria, o per essere più precisi, dato che ce ne sono diversi, delle nostre memorie. La valutazione che è stata fatta sul 2013, ma il 2013 non è l'anno di riferimento, per gli italiani pagheranno meno tasse anche sulla casa e laddove ne pagano un po' di più dovranno parlarne col loro comune, perché la TASI è una tassa comunale. Finalmente una tassa che serve ai comuni per avere autonomia finanziaria, e lo diciamo qui da Trento, dove l'autonomia è un valore. Questo era il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, in una dichiarazione raccolta qualche giorno fa proprio al Festival dell'Economia di Trento, dove anche Radio 24 era presente. Ci siamo così incrociati. Esatto, ma non l'abbiamo quasi incrociati. Guarda, se l'avessimo incontrato lo potevamo invitare quella mattina, anche se parlavamo di educazione finanziaria. Vabbè, ma noi lo sedevamo lì, qualche cosa gli facevamo. Ma lui con dire. Tutti i figli che ha, caspita. Sarebbe stato altro che una bella testimonianza la Vabbè, sua. Alla Comunque, prossima, lo invitiamo. Esatto, Delrio sostiene che con il nuovo sistema gli italiani pagheranno meno tasse sulla casa rispetto all'IMU dell'anno scorso, ma è poi davvero così? Pagheremo di meno? Buongiorno a Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno. Allora Cristiano, è chiaro che la risposta giusta è dipende, ma da sì. Che cosa? Ma dipende da quello che decide il singolo comune, perché noi eravamo abituati con l'IMU, per quanto riguarda la prima casa, ad avere un'imposta che aveva delle detrazioni fisse, i famosi 200 euro per tutti, 50 euro in più per ogni figlio, e invece il bello o il brutto, se vogliamo, della TASI è che è un'imposta che è davvero totalmente nelle mani del comune, quindi il consiglio comunale, il sindaco può decidere l'aliquota, può decidere se e quante detrazioni dare. Abbiamo visto che ci sono città che per esempio danno una detrazione uguale per tutti, altre che la legano alla rendita catastale della casa, altre che non la prevedono. E poi, tanto per capire di cosa stiamo parlando, quando si parla di TASI, allora la TASI è un'imposta che va di base a tassare l'abitazione principale, cioè quella che volgarmente viene chiamata prima casa. Ma se il comune lo decide, la TASI va pagata anche su tutti gli altri immobili, quindi anche sulle seconde case, sui capannoni, sugli uffici, e in questo caso si va a sommare all'IMU. Nella maggior parte dei casi, però, da quello che stiamo vedendo, i comuni stanno facendo una scelta almeno logica, cioè di dire TASI sull'abitazione principale, IMU sulle seconde, ma niente vieta che sulle seconde case e sugli altri immobili i due tributi si sommino. Ecco, tra l'altro magari possiamo invitare gli ascoltatori a raccontarci se nel loro comune è capitata una circostanza di questo tipo. Intanto, perché siamo nelle mani del sindaco, esatto. Raccontateci che cosa ha deciso di fare il vostro sindaco. Ce n'è qualcuno molto virtuoso, perché per esempio Silvia ci racconta che nel suo comune Costa Masnaga le è stato spedito a casa il modulo F20 con la cifra inserita e lettera allegata che spiega IMU e tutto il resto, molto efficienti. Sono dei casi rari, Cristiano, o molti comuni sono stati così bravi? No, purtroppo sono casi rari. Sono casi rari anche perché il vero problema che hanno avuto molti comuni, adesso qui parliamo soprattutto della TASI, ma è una cosa che a volte vale anche per l'IMU, è che si arriva con la delibera a pochissime settimane dalla scadenza, quindi non c'è il tempo materiale per gli uffici di mettersi lì a preparare i bollettini, certo. A fare i conti per tutti. Torna con noi, sì. Sì. Volevi... No, volevo leggere alcuni messaggi perché c'è un po' di sconforto da parte dei nostri ascoltatori, naturalmente. Come anche non capirli? Stefano da Udine ci scrive: la mia strategia, abbiamo chiesto qual è la vostra strategia per ricordare tutte queste scadenze, sarà di emigrare in Austria, visto la vicinanza del confine non se ne può più. Mentre un nostro amico Antonio da Torino ci scrive: mi sono rivolto ad un commercialista perché è diventato stressante ogni sei mesi, sempre peggio, pagare e ricordarsi. Tra l'altro ogni sei mesi gli va anche bene, perché in realtà qualche giornale questa mattina ricorda l'emergenza che ha lanciato ieri il presidente della Confartigianato, me lo ricordo perché ho fatto ieri pomeriggio anche Focus Economia, in cui in realtà ribadiva come gli adempimenti fiscali che arrivano, cioè praticamente uno al giorno per i professionisti, quindi in realtà la situazione è molto più complessa. Torna con noi stamattina anche Mirko Mion, presidente di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Buongiorno Deborah, Nicoletta e Cristiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori. L'ultima volta con lei abbiamo parlato di TASI, non tutti avevano o avevamo ancora le idee chiare sulle scadenze che avremmo dovuto rispettare. Ci aspettavamo ancora le delibere di molti comuni che sarebbero dovute arrivare entro il 23 maggio. Adesso però c'è uno schema delle scadenze un po' più chiaro, Mion, quindi ricordiamo chi è interessato a questo conto alla rovescia che vede la prossima scadenza del 16 giugno e chi invece aspetterà, a quale data deve guardare. Allora, innanzitutto diciamo che la scadenza del 16 giugno ha competenza anche per quanto riguarda la prima rata dell'IMU. Qui abbiamo una normativa consolidata dall'anno scorso, quindi avremo il 16 di giugno e il 16 di dicembre per il saldo, utilizzando nell'acconto le aliquote del 2013, ma ragionevolmente anche potendo utilizzare quelle delle delibere del 2014 laddove siano migliorative per il contribuente. Per quanto riguarda la TASI, almeno qui da oggi proprio abbiamo un quadro ufficiale, non più ufficioso, nel quale abbiamo sentito molte interviste che parlavano di settembre, poi di ottobre. Oggi siamo così, possiamo dare perlomeno una buona notizia di avere un quadro ufficiale, perché ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 88 che dà un quadro dello slittamento della prima rata TASI, che è prevista per il 16 giugno per tutti quei comuni che hanno deliberato entro il 23 di maggio e hanno inviato al Ministero, e quindi hanno visto pubblicare il proprio sito del Ministero, sì, le aliquote. Hanno visto pubblicare le proprie aliquote entro il 31 di maggio. Per tutti quei comuni che sono circa il 75% che non hanno deliberato, perché sono circa 2200 comuni che hanno deliberato, il decreto legge prevede uno slittamento della possibilità di deliberare entro il 10 di settembre, con la pubblicazione il 18 di settembre, per dare il pagamento della prima rata al 16 di ottobre. E l'ultima data, che perlomeno questa è certa per tutti, sarà il saldo del 16 di dicembre. Senta, abbiamo appreso un nome, è un numero che ritorna. Abbiamo appreso che c'è anche una situazione intermedia. No, no, ce li dobbiamo giocare all'otto. Sì. No, è la mia data di nascita. Ah, ecco. La mia 17. Però sono ritornati 88, 16, 24. Ce li giochiamo e così se domani così non paghiamo ci la tasi. Se non ci sentite in diretta nei prossimi giorni sapete perché. C'è un altro caso che ci è stato segnalato dal nostro Carmelo in regia questa mattina. Desio, giusto, Carmelo, pare che il sindaco abbia stabilito che l'acconto tasi si debba pagare entro il 16 luglio. È possibile, Cristiano? Allora, qui diciamo che non dovrebbe essere possibile, perché le scadenze le ha fissate la legge. Deve guardare meglio la comunicazione che gli ha mandato il sindaco. Adesso cerchiamo di approfondire, perché bisogna capire se il comune ha dato questa data del 16 luglio come una sorta di proroga rispetto al 16 giugno, cioè ha detto, cari cittadini, io so benissimo che la scadenza è il 16 giugno, però vi mando a casa il bollettino precompilato e vi consento di pagare entro il 16 luglio. I sindaci hanno facoltà di fare questa proroga? Non ce l'avrebbero, però siccome la sanzione deve applicare il sindaco stesso, e se il sindaco dice dammeli pure entro il 16 luglio, a quel punto lì tutto torna, evita le sanzioni, si evitano le sanzioni. Poi comunque non arriva in tempi così brevi l'accertamento, quindi diciamo, se è una cosa che è avallata dal sindaco, che per di più manda a casa il bollettino precompilato, il contribuente può attenersi alle indicazioni del comune. Diverso sarebbe se il comune facesse questa richiesta di vedere i soldi entro il 16 luglio non avendo deliberato entro maggio, perché a quel punto lì si viene meno dalle garanzie minime della legge, cioè tu non puoi deliberare, mettiamo domani, e pretendere il denaro il 16 luglio, perché Carmelo, la legge portaci ti dice sta che vai a lettera ottobre. Perché leggiamo bene, magari ci facciamo fare un approfondimento a Cristiano sul Sole 24 comunque ore. A Bologna, ci avverte un ascoltatore, la scadenza è stata rinviata al 31 di luglio. Vedi? E questo è un altro caso, questo è un altro caso di delibere dei comuni. Tra l'altro abbiamo sul giornale di oggi proprio un articolo che ripropone la diversa casistica di delibere che danno proroghe anomale. È chiaro che qui resta il discorso che la data è quella del 16 giugno. Poi nel momento in cui il comune mi concede di pagare più tardi, se io pago più tardi, quantomeno non avrò sanzioni. Questo è il discorso. Abbiamo detto il 16, un numero che ritorna, è di 16 pagine. L'ho pensato anch'io. È proprio la guida che è in edicola con il Sole 24 Ore, 16 pagine con tanti chiarimenti, approfondimenti utili a non sbagliare, sia che la TASI la dobbiate pagare per la prima casa che per la seconda, che dovete pagare solo quello, anche l'IMU, insomma. Cristiano, una guida per essere un pochino meno disorientati. Sì, questa è l'idea. Molto diretta, semplice, a prova di Nicoletta, direi. Perché diciamo l'ho sbagliata anch'io, ho capito davvero? Tutto. Sì, tra l'altro possiamo dire una cosa, che chi non dovesse poi trovarla in edicola la può comunque acquistare in formato digitale sul sito all'indirizzo ilsole24ore.com/, cioè la barra inclinata, focus. Sì, perché in effetti basta leggere. Io in questi mesi ho vinto questa sorta di timore, di paura, di blocco nei confronti di tutte queste scadenze, eccetera, perché Deborah mi ha detto basta leggere. Invece solitamente uno dice no, sono troppo complicate, non ce l'ho, e delega. Invece se ci sono degli strumenti così chiari come appunto questa guida, che è proprio fatta per far capire, adesso non diciamo che non è che sono diventata brava come Deborah, né ho le competenze, però insomma uno si muove un pochino di più, almeno attiva. Ha superato un po' la barriera mentale. Brava, poi... non la barriera rosa, la barriera però, del numero. Mark dalla provincia di Torino e Maurizio dalla provincia di Monza e Brianza hanno superato la barriera rosa all'800240024 e direi di cominciare a sentire i nostri ascoltatori. Mark, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io telefono, faccio parte di un comune... in quanto ha istituito un servizio di fiscal mail dove attraverso una preregistrazione uno riceve via mail tutti i conteggi di IMU, TASI e TARI. Però e come si chiama questo comune? Mark, ce lo dica. La Loggia, in provincia di Torino. Ottimo, che magari Mirko Mino lo conosce. Sì. Ecco, però la nota negativa chiaramente è che la giunta comunale ha deliberato l'assenza assoluta di detrazioni e deduzioni sia per i figli che per la prima casa. Però vi ha mandato queste belle notizie con la fiscal mail, Mark, tanto per indorarvi un po' la pillola. Per carità, però il risultato finale è che l'ex IMU, contando che il mio reddito mio e di mia moglie non è cambiato, lo stato di famiglia non è cambiato e la proprietà non è cambiata, l'IMU, cioè ex IMU nonché TASI, è raddoppiata del 100%. Eccolo qua. E questo tanto per contraddire, ecco, per contraddire le convinzioni di Graziano Del Rio, che dice che invece appunto la tassazione è aumentata. Mirko Mion, allora, che ci dice della loggia? Beh, quello che dice l'ascoltatore, direi che dalla lettura di molte delibere che abbiamo avuto modo di prendere in considerazione, è una tendenza, direi, nazionale, cioè quella da parte del comune di deliberare una TASI sull'abitazione principale, a volte aumentandola fino al 3,3 come previsto dal DL 16, quindi aumentando l'aliquota massima del 2,5 dello 0,8, prevedendo in questo caso delle detrazioni, o al 2,5, io ad esempio parlo del mio comune di residenza, il comune di Piverone, dove è stato deliberato il 2,5 per mille senza nessun tipo di detrazione. Ma questo avviene per due ordini di motivi molto semplici. Il primo, perché i comuni hanno fatto una scelta molto semplice. La TASI non è nient'altro che un sostitutivo dell'IMU, e quindi la mancanza di gettito proveniente dai comuni è stata compensata in maniera proprio precisa. L'altra, non è stata inserita nemmeno la TASI molte volte negli immobili diversi dall'abitazione principale, perché i comuni non hanno più margini di manovra in quanto avevano già spinto al massimo le aliquote dell'IMU. Quindi direi che poi il quadro, io lo vedremo con il 75% delle delibere mancanti, io credo che la tendenza sarà confermata poi nelle delibere successive, e il comune di La Loggia non ha, diciamo che quantomeno ha il merito di aver messo a disposizione un servizio. Esatto, senza che dobbiamo rincorrere in questa situazione magmatica che insomma fa disperare il contribuente. E Lionello da Vicenza ci scrive: indecente il fatto che i cittadini debbano pagare dei professionisti per pagare le tasse dei comuni che non inviano a casa i modelli compilati. Vabbè, in questo modo alla loggia. Per chi eventualmente non ha il modulo precompilato, ci sono anche dei simulatori, no? Cristiano, adesso a parte quello del Sole 24 Ore, qualche altro servizio, non so se l'Associazione dei Comuni Italiani anche ne mette a disposizione. In realtà sul sito del Sole ospitiamo due calcolatori che sono proprio elaborati dalle società che lavorano per l'Associazione Nazionale dei Comuni. Quindi Ancitel. Esattamente, sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la TASI. C'è proprio un'area dedicata del sito e insomma si può accedere ai due calcolatori che compilano anche il modello F24. No, volevo aggiungere una cosa su quello che diceva giustamente Mion, e cioè che è vero, i comuni stanno facendo in molti casi con la TASI il conto per far sì di incassare dalla TASI più quanto o meno avrebbero incassato con l'IMU. Esatto, però la ricaduta finale non è indifferente per i contribuenti, perché un conto è pagare il 2,5 per mille di TASI senza detrazioni e un conto è pagare il 4 per mille di IMU con detrazioni. Se non si mettono le detrazioni, che cosa succede? Succede che viene a pagare di più chi abita in case che hanno una rendita catastale bassa in rapporto, e si va a premiare chi abita in case dalla rendita catastale più elevata. Poi, siccome sappiamo che il catasto italiano è spesso fatto un po' a casaccio, questo non vuol... che deve essere riformato. Esatto, questo non vuol dire che è sempre il povero a pagare di più. Però attenzione, perché se i sindaci non maneggiano con cura questa qualche cosa, qualche iniquità viene fuori. E non la stanno maneggiando, rischiano di creare più iniquità di quelle che c'erano già prima. Dove vuoi andare? Abbiamo due Maurizi. Allora, andrei da Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Buongiorno Maurizio. Sì, buongiorno a voi. Tutto bene, buongiorno. Nicoletta, tutto... sì. Mi stavo strozzando, Maurizio. Pensi che è imbarazzo. Con tutte queste Z che dobbiamo, dire, ci dica. Niente, volevo confermavo che infatti io pagherò di più sulla prima casa che non rispetto all'IMU, quindi quello che è appena stato detto. Ma la mia è una domanda un po' più pratica e specifica. Il dovuto sul calcolo dovuto è compensabile con un eventuale credito IRPEF derivante dalla denuncia dei redditi? Maurizio, sentiamo un po'. Cristiano, vuoi rispondere tu? Sì, diciamo che dovrebbe valere la regola generale che valeva già con l'IMU, per cui i crediti in dichiarazione si possono utilizzare per abbattere, per abbattere l'imposta dovuta. Esattamente. Allora andiamo anche a Padova adesso. Poi tra l'altro volevo chiederti un'altra cosa relativamente all'IMU, perché ieri, sfogliando la guida del Sole 24 Ore, Marco Lombardo, assistente di Cuore Denari, appunto mi ha fatto fare attenzione su una cosa che scrivete e che poi appunto volevo leggere. Andiamo a... Di cui vogliamo chiedervi ragione. Questo è un po' il senso. Perché noi, siccome siamo diventate più attente a leggere, adesso scoviamo anche le cose che facciamo non ci torna. Facciamo le pulci. Esatto. Maurizio dalla provincia di Padova in questo caso. Buongiorno, sono Maurizio da Galliera Veneta. Sì. Io già pago l'IMU per l'appartamento di mia moglie che è in affitto. Uh-huh. E adesso a ottobre mi parte anche la TASI, mi hanno già confermato. Certo. Però ho gli affittuari che non pagano, sono morosi. Come devo fare? Posso far da meno a pagare? Tra l'altro Maurizio, a loro aspetterebbe l'IMU anche pagare pagarla. Una percentuale di TASI, peraltro, no? Allora, andiamo a Mirko Mion. Maurizio ci racconta una situazione nella quale si potranno ritrovare molti altri ascoltatori, Mion. Difficoltà economiche in questo periodo, appunto, stanno portando molte famiglie che sono in affitto a non riuscire a pagarlo. E quindi il proprietario si ritrova in questa situazione un po' conflittuale, no? Da una parte deve pagare le tasse su questi immobili che mette a reddito, se che mettono a reddito, e dall'altra però non incassano nulla. Come possono fare con la tassazione? Come possono fare? Possono fare nulla, perché il principio impositivo è quello del possesso dell'immobile in questo caso, e quindi dovrà andare a pagare l'IMU. Dove fosse stata deliberata anche una percentuale di TASI sull'immobile dato in affitto, dovrà pagare anche la TASI, verificando poi sempre il regolamento comunale quanto prevede a carico dell'affittuario. L'unica fortuna è che sono due obbligazioni separate. Però quella percentuale che deve pagare l'affittuario di TASI, in questo caso, se l'affittuario non paga l'affitto, ne risponde il proprietario, no? Non ne risponde, non c'è un principio di solidarietà da parte del proprietario. Sono due obbligazioni separate, tant'è vero che chi va a pagare la TASI sulla seconda abitazione, quindi il proprietario nella sua percentuale definita dal 70-90% da parte del comune e dal 10-30% l'affittuario, sono due F24 separati completamente. Allora, Nicoletta, Avremo Armando che ci chiama da Parma all'800-24-0024 ed è spuntato anche un Paolo dalla provincia di Torino, ma noi dobbiamo andare a sentire. Sentiamo Mercati. Bravo. Intanto ti preannuncio che ci sono anche molti ascoltatori all'indirizzo di posta del nostro programma, Cuore Denari Chiocciola, che viene, come dire, frequentato un po' meno, ma ogni tanto qualcuno ci scrive anche qua, e qua in ogni caso l'opportunità è quella di, come dire, scrivere delle mail un po' più articolate, magari ne leggeremo qualcuna. Cuore e denari. Volevo scusarmi con tutte le donne a nome della categoria maschile. Purtroppo non abbiatecela con noi. Noi non ci ricordiamo e non ci ricorderemo mai compleanni e anniversari. Ma non è colpa nostra, non ci hanno fatto il file. Ed è proprio così, date, anni, anniversari di compleanno, ma anche scadenze, probabilmente come quella della TASI di cui ci stiamo occupando oggi, gli uomini partono un po' svantaggiati. Hanno la memoria corta, a sostenere i risultati di uno studio effettuato, pensate, su 37.000 persone dai ricercatori dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia. Il risultato divide la popolazione in due. Da una parte ci sono gli uomini con grande difficoltà a tenere a mente le informazioni, in particolare i nomi, le date, dall'altra le donne che vincono di gran lunga. Vi do alcuni dati. L'89% degli uomini ammette di avere dei problemi anche solo a ricordare i nomi. La cosa si complica quando ci sono di mezzo anniversari e compleanni, che portano gli uomini a sbagliare fino al 79%. Il problema è che l'autore dello studio che ha prodotto questi risultati non è stato al momento in grado di spiegare questa differenza, forse perché si è dimenticato che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, certo, cara Deborah. Bellissimo libro. Allora, la memoria è donna? Lo scopriremo a partire dalle 12. Nel frattempo ricordate di chiamare il nostro numero verde per i vostri interventi. Che cosa tendete a dimenticare? Che cosa invece ricordate con facilità? Avete qualche trucco o avete qualche dubbio? 800 24 0024. Il professor Cavedini ci raggiungerà per testare un po' la nostra memoria. Mirko Mion, lei che conosce a menadito tutte le normative sulla casa e non soli, le anni di casa sua se li ricorda tutti? Assolutamente sì. Poteva mai dirmi di no? Sono scolpiti nella mia memoria. Scolpiti nel suo cuore, deve dire, non nella memoria, esatto. Nel suo cuore. Allora, prima di sentire i nostri ascoltatori, erano pronti prima della pausa Armando da Parma e Paolo dalla provincia di Torino, volevo sollevare con Cristiano Dell'Oste un aspetto che sulla guida di oggi, su TASI e IMU, tutte le regole, mi ha colpito leggendo, anzi se ne è accorto Marco Lombardo. Allora, la scadenza del 16 giugno, dicevamo, sia per l'IMU che per la TASI, si tratta di un acconto, quindi poi dovremo saldare in autunno e su questo non ci piove. C'è però un'altra scadenza che corrisponde nella stessa giornata, ovvero quella per regolarizzare, dite voi nella guida stamattina, i versamenti insufficienti della seconda rata IMU 2013. Mi chiedo, in quali casi si possono essere verificati? Non abbiamo già fatto il saldo con la mini IMU a gennaio, Cristiano? No, eccolo, no, là, là. Senti la voce dell'oltretomba di Miondi là. No. Allora diciamo questo, che siccome anche con il saldo dello scorso anno c'è stata una bella confusione sui pagamenti dell'IMU, era stata inserita una norma che consentiva in pratica a chi avesse sbagliato a pagare la seconda rata di dicembre dell'anno scorso di mettersi a posto pagando entro il 16 di giugno e evitando le sanzioni. Quindi il termine del 16 giugno è quello per mettersi a posto con gli errori che si sono fatti nel saldo di dicembre senza dover fare il cosiddetto ravvedimento operoso, cioè senza dover calcolare sanzioni e interessi. Naturalmente anche dopo poi si può sanare la propria posizione, però a quel punto lì valgono le regole del ravvedimento operoso, quindi sanzioni e interessi da pagare. Il discorso della mini IMU invece è un'altra cosa, nel senso che la mini IMU era in pratica una coda che si è pagata lo scorso 24 gennaio, relativa sempre al 2013, ed era in pratica quella parte di IMU sulla prima casa che non era stata completamente cancellata nel corso del 2013, sulla quale sicuramente saranno stati commessi molti errori, e anche gli errori commessi nel pagamento della mini IMU possono essere anche questi rimediati entro il 16 giugno. Quindi tu dici che, per esempio, io e Nicoletta che l'abbiamo pagata il 24 gennaio dobbiamo fare qualche controllo per verificare se abbiamo sbagliato l'importo, che cosa? Come possiamo stabilirlo? Adesso ho fatto il caso mio di Nicoletta per naturalmente identificarci con molti altri ascoltatori che potrebbero avere questo chi dubbio. Chi avesse il dubbio di aver sbagliato deve rifare i conti e vedere se ha fatto il calcolo giusto. Vabbè. Quindi telefonata al commercialista oggi, cara mia. No, volevo dire, per quanto riguarda la mini IMU si trova comunque ancora online il calcolatore che avevamo messo sul sito del Sole, ma che comunque è sempre quello fatto in collaborazione con la Società dei Comuni, e lì è un attimo andare a verificare se il conto era giusto. Sì. Volevo dire inoltre, alcuni comuni che definirei virtuosi proprio in quella fase del calcolo del mini IMU, essendoci come sempre sufficiente confusione nell'applicazione, hanno, e questo io consiglio ai contribuenti di andarlo a verificare, perché come sempre ci si dimentica abbastanza in fretta di una scadenza non pagata, altrimenti non faremo comuni, la trasmissione. Faccio l'esempio proprio del comune di Ivrea, aveva posticipato il pagamento esattamente con la stessa logica di cui parlava Cristiano dell'oste rispetto a delle scadenze diverse da quelle preordinate. Sì, tipo Desio a metà luglio. Esattamente, ha fatto convergere la scadenza della mini IMU con il 16 di giugno. Quindi da Ivrea andranno a pagare i contribuenti. Adesso Ivrea non so se ha deliberato per quanto riguarda la TASI, ma sicuramente andranno a pagare il saldo della mia. Insomma, comune che vai, TASI o che IMU trovi. Che trovi. Dove andiamo invece? Andiamo a Parma, c'è Armando, buongiorno. Esatto, che ci solleva un argomento che avremmo voluto toccare questa mattina su chi ha comprato casa quest'anno, su che queste, con queste scadenze fiscali, come si orienta. Armando. Buongiorno. Allora, io se tutto va bene, perché per avere un mutuo ci abbiamo messo 7 mesi, dovrei andare a Rogito venerdì. Ecco, questo venerdì è 13, di... Rogita. Fra due giorni. Volevo sapere, fa fede il giorno che faccio il Rogito per pagare la TASI, l'IMU, o perché c'è il fatto che bisogna registrare il Rogito e quindi passano, diciamo, 30 giorni, fa fede la data di registrazione? Armando, che bel caso, guardi, tanto per complicarci un po', come dire, le cose questa mattina, dunque vediamo se Cristiano intanto fa l'indifferente e vuole cimentarsi nell'analisi del caso di Armando, poi chiederemo conferma anche a Mirko Mion. No, io ritengo che faccia fede la data del rogito, perché la proprietà si trasferisce nel momento in cui viene stipulato l'atto davanti al notaio. Però la sua proprietà si consuma in un weekend, se fa fede la data del rogito deve pagare la TASI su questa casa. Allora, adesso poi andiamo a vedere cosa succede, nel senso che lui diventa proprietario dal giorno 13. Sì. Dopodiché la regola generale per quanto riguarda l'IMU, che vale anche per la TASI, è che un periodo di possesso di 15 giorni o più conta come un mese intero. Mm. Quindi lui a giugno risulta proprietario per 17 giorni, perciò risulta proprietario per giugno tutto intero. Ah. Quindi lui deve pagare il mese di giugno. A conti fatti, per quanto riguarda l'anno d'imposta 2014, il nostro signore, adesso vado a memoria ma credo di non sbagliare, pagherà per 7 dodicesimi di imposta, cioè il mese di giugno più tutti i mesi da luglio a dicembre. A questo punto lui ricade in una situazione abbastanza particolare. In un limbo. Dovrebbe pagare entro il 16 di giugno, a conti fatti. Perché? Perché il mese di giugno va ancora a cadere nel primo semestre e quindi va liquidato entro il 16. D'altra parte siamo nel caso ovviamente di limite, in un caso limite. Se in lui un caso non avesse sentito il programma di stamattina, si sarebbe immaginato di dover pagare la TASI su una casa della quale entra in proprietà venerdì. Ecco, non cioè sappiamo se ci premierà con la fiducia, ci ascolterà sempre o dirà basta, non vi ascolto più. In questo caso vale poi l'applicazione del buon senso nella regola, perché stiamo parlando di un mese di imposta, tradotto in pochi spiccioli, la sanzione è molto piccola. Se il nostro ascoltatore riesce a pagare ragionevolmente con qualche giorno di ritardo va bene, altrimenti liquiderà a gennaio e se a dicembre, e se vuole essere preciso andrà anche a calcolare un minimo di sanzioni. Era Parma, giusto, il comune dell'ascoltatore? Quindi dobbiamo chiamare Pizzarotti per sapere se potrà chiudere un occhio con il nostro amico che diventa proprietario venerdì. Sentiamo se Mion Sì. Mirko Mion vuole intervenire su questo caso, magari se ci vuole mettere in l'analisi di Cristiano. E purtroppo la normativa prevede appunto che per i blocchi di giorni di possesso vanno da 1 a 15, da 15 a 30, essendo tra due giorni, quindi 11 e 2 giorni fa 13, sarà costretto a pagare questi 7 dodicesimi di possesso e poi dovrà anche andare a presentare la dichiarazione relativa al possesso, quindi la dichiarazione IVA. Mm. Allora, vorrei leggere quello che ci scrive Cami su Twitter. Cami? Cami su Twitter. Mm. Buondì, ma all'inquilino gli viene recapitato l'F24 per pagare la TASI e come si fa? Brava, brava. Perché penso proprio che non viene recapitato un bel nulla a nessuno. Ecco. Cristiano. No, non viene recapitato a meno che il comune non sia uno di quei pochi comuni virtuosi che lo recapitano. Tra l'altro vorrei dire una cosa. All'inquilino, quindi parliamo anche per quella quota percentuale dal 10 al 30% rispetto alla TASI pagata dal proprietario, secondo te qualche sindaco manda agli affittuari? Allora, in teoria i dati ci sono, in pratica penso che saranno l'1% dei sindaci, forse anche meno. Volevo dire però una cosa importante: adesso noi stiamo sempre ricordando che l'inquilino ha dal 10 al 30% di TASI da pagare, ma attenzione, solo nei comuni che istituiscono la TASI anche sulle abitazioni affittate. Perché facciamo un esempio di un grande comune, il comune di Torino ha istituito la TASI soltanto sull'abitazione principale, su tutti gli altri immobili è aliquota zero, quindi non c'è TASI. Perciò se io sono proprietario di una casa che ho dato in locazione nel comune di Torino, pagherò io l'IMU con la mia aliquota, che nel caso specifico vado a prendere la delibera del 2013 e se è a canone libero sarà il 10,6 per 1000. Dopodiché l'inquilino non pagherà nulla perché lui non ha la TASI. La TASI c'è sulle case affittate solo se il comune la istituisce. Quindi se siete inquilini, occhio. Esatto, perché potreste non doverla pagare, ma potresti anche doverla pagare. Cuore e denari. È aumentata la TASI, TAIRU, tutto, IOC, come si chiama, IUC? Non è vero che abbiamo tassato la casa, cioè, come la TASI, no? Come no, la TASI? Come? L'innalzamento della TASI? Ma lei... La tassa sui rifiuti, la TARI, mi pare si chiama, l'ultimo nome, se no? In Veneto TASI vuol dire TACI. TASI, si finisce RS, però poi si fa TATI, TAVI, TAZI, TAFAZI, Stavo... Perché ridi? Perché si confondeva persino Renzi, che è stato comunque il sindaco, lui dovrebbe avere, come dire, molto chiaro in testa tutto il mondo delle sigle per quello che riguarda la tassazione sulle proprietà. E a proposito, a Firenze, ma anche a Torino, ci scrivono da Bergamo, molti dei nostri ascoltatori, Cristiano, ci stanno scrivendo. Ma allora, a Torino si paga la TASI e a Firenze c'è una risposta a tutto questo, perché c'è un modo per trovarlo, ma intanto possiamo dare qualche risposta. risposta ai nostri ascoltatori. Firenze e Torino. E poi diciamo per tutte le altre. Esatto, se io città, sto in un comune dove non so se si paga o meno, perché il sindaco non è stato tanto bravo nella comunicazione, dove vado a pescare questa notizia? Allora, ci sono due vie che poi sono in realtà la stessa, se vogliamo. Allora, quella istituzionale, il sito www.finanze.it, si accede appunto a una sezione che si chiama Delibere Tasi e da lì si va scrivendo il nome del comune, c'è una maschera di ricerca. Oppure sul sito del Sole 24 Ore c'è un dossier che consente, tra le altre cose, anche di andare a vedere se il proprio comune ha deliberato e pubblicato la delibera sul sito delle finanze. L'indirizzo in questo caso è il sole24ore.com/inclinata SOS Imutasi. Già il nome, SOS Imutasi, già il nome del dossier è evocativo, fa capire senza, che... No, volevo dire, senza mettere in dubbio ovviamente il sito del Sole 24 Ore, quello più non affidabile, ma nel senso su quello delle finanze c'è proprio l'elenco dei comuni che hanno anche pubblicato l'aliquota, per cui è confermato al 100%. No, ma anche il dossier del Sole pesca da quello delle finanze, quindi ecco, diciamo la fonte è identica. Perfetto. Su quello del Sole in più ci sono altri strumenti. Vedi, utili. Voleva fare un po' le pulcette anche sul sito del, certo, Sole, ma noi siamo qua apposta. Anche no, invece, dimmi. Avevate chiesto Firenze e Torino, giusto per darne vedi un paio. Vedi che lui era un trabocchetto per vedere se avevi memoria. Mi salvo su quella di breve periodo. Dai. E su quella di lungo. No, allora, diciamo che Firenze al momento non risultano pubblicate delibere, quindi c'era perché a Firenze si è votato da poco, esatto, primo in Torino? Allora, per quanto riguarda Torino invece, allora adesso andiamo a prenderla con questo ditino tutto. Esatto. Con l'iPad, guarda come trova tutto. Ma andiamo da Mione, che è lì vicino, no, e che sa. C'è ancora una cosa, allora, se mi è permesso, allora, c'è una terza via che è il sito www.agp. Ah, beh, certo. Adesso lo facciamo pure noi di Cuore e Denari. Semplice, perché oltre al sito del dipartimento si può scaricare in formato Excel l'intero elenco dei comuni che hanno deliberato per IMU, che per TASI, che per TARI. Metteteci anche però lì nella notizia se è stata deliberata sulla casa in affitto, perché ci sono molte famiglie che abitano in affitto. Sì, e quindi hanno fatto un lavoro molto semplice, ho creato un file PDF, quindi un formato facilmente scaricabile da parte di tutti, che è iperlinkabile, si trova il proprio comune, e c'è un link che direttamente apre la delibera comunale. Molto semplice, gratuito, scaricabile dal sito di Agi. Perfetto. Detto questo, poi, su Torino cosa ci dice? Torino, le dico che ha deliberato la TASI sull'abitazione principale, esclusivamente, del 3,3 per mille. È vero, poi ce l'aveva detto forse anche in un'altra puntata, al massimo... Una delle detrazioni, proprio perché ha utilizzato questa opzione della cosiddetta super TASI del DL 16 dello 08, con una detrazione di 110 euro per l'abitazione principale, ma a condizione che sia 700 euro di rendita catastale e 30 euro per ogni figlio residente a carico. Allora, vogliamo rispondere a Agnetta che ci chiama da Bari e ci chiede: Cristiano, per chi non ha pagato quella di dicembre, sì, c'è la sovrattassa se si paga a giugno? Allora, qui entriamo in un campo, in realtà non è una domanda così semplice, vi spiego perché. Perché quella norma di cui dicevamo prima, che ti consente di pagare entro il 16 giugno evitando sanzioni e interessi, nella dicitura di legge parla di versamento insufficiente, quindi in teoria sarebbe sarebbe riservata a chi ha sbagliato i conti e ha pagato 80 anziché 100. Sì. Però attenzione, perché qui bisogna capirsi un pochino. Allora, se la nostra ascoltatrice ricade in un caso per cui non c'era un'oggettiva situazione di incertezza, facciamo l'esempio, una seconda casa su cui si può discutere su quanto si dovesse pagare, ma si sapeva che l'IMU c'era e non ha pagato, allora probabilmente deve pagare sanzioni e interessi facendo il cosiddetto ravvedimento operoso, che poi, intendiamoci, sanzioni e interessi per quanto riguarda il ravvedimento operoso sono poca roba, nel senso che parliamo di pochi punti percentuali di maggiorazione, e sempre i vari calcolatori consentono già di calcolarti anche quelli. Questa è una buona cosa. Poi però attenzione, potrebbe darsi anche il caso di qualcuno che non ha pagato a dicembre perché riteneva di non dover pagare, perché la situazione normativa è cambiata. Faccio un esempio. Le case rurali a certe condizioni erano esentate a giugno ma non a dicembre. Se qualcuno si è perso la novità normativa, non ha pagato ed ha pagato appunto zero per per intenderci, sì. Ma non perché non poteva, non voleva o si è dimenticato, ma perché credeva di ricadere in una fattispecie diversa. No, perché la norma è confusa, va a violare sempre, allora, i diritti del contribuente. Lì io ritengo che, stante l'oggettiva incertezza normativa, si possa non avere le sanzioni e gli interessi anche in questo caso. Ma chi caso glielo qui dice l'ascoltatrice, in quale caso ricade? Beh, bisognerebbe capire, no, bisognerebbe capire da lei oppure il suo commercialista, insomma. Va bene. Abbiamo perso l'ascoltatore che era pronto lì ad intervenire. Pazienza. Sì, è caduto. Andiamo agli SMS allora. Lino da Siracusa, tanto perché almeno possiamo andare un po' al sud Italia, perché sennò qua abbiamo affrontato solamente Firenze, Torino, il Veneto. Lino da Siracusa chiede a un figlio universitario con stanze in affitto a Catania, con contratto d'affitto regolare, contratto collettivo, non capisco cosa significhi per una stanza d'affitto universitario, comunque paga la TASI. Mirko Mion, in queste situazioni al limite come ci si deve comportare? Allora, innanzitutto ritengo che per collettivo probabilmente saranno più ragazzi all'interno della stessa unità immobiliare. Certo che sono veramente di legno, come si suol dire. Si vede che sono anni luce lontana da quei periodi là, sì? La normativa comunque prevede che laddove ci siano dei contratti di locazione inferiore ai 6 mesi, la quota a carico dell'inquilino, quindi quella forbice tra 10 e 30%, non debba essere versata. Certo. Quindi bisognerebbe verificare poi se questo contratto ha una durata, chiaramente prendendo in considerazione l'anno solare, quindi 2014. Quindi ritengo, se il ragazzo universitario che da abbia ultimato la sua permanenza nella città prima, verso maggio oppure questo mese di giugno, quindi dovrebbe essere al di sotto, deve verificare se il contratto d'affitto ha questo tipo di durata superiore ai 6 mesi. Certo. Nicoletta, Domenico D'Abusto ci scrive: il 16 agosto anniversario di nozze, il sesto, aggiunge. È il sesto? Sì. Ah, perché non vedo, ha scritto una seconda volta. Ah, il 16 sesto anniversario, io invece pensavo fosse 16-6. Vabbè, comunque auguri. Certo. È il giorno, è tra poco. Il 17 è il mio compleanno, evviva. Sì, perché noi siamo delle gemelle, l'abbiamo fatto tutte e due a giugno. Speriamo che qualcuno si ricordi della nostra data, anche se uomo. E arrivano molti già messaggi a commento di questa ricerca che abbiamo letto, che dice che gli uomini sarebbero meno portati a ricordare, e naturalmente c'è chi scrive come un ascoltatore: noi non ci perdiamo in simili baggianate, non imprimiamo la memoria, invece ci sono anche uomini che ci scrivono ammettendo la loro difficoltà nel ricordare nomi, dati e compleanni e forse scadenze. Come? No, volevo sapere se volevi salutare l'ospite che ci farà compagnia. Sì, ci accompagnerà, è arrivato il tempo. Buongiorno, professor Cavedini. Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Psichiatra e professore alla scuola di psichiatria all'Università di Firenze, dove non si paga, quindi. No, perché Nardella è stato rieletto da poco. Cuore e denari. E io pago! E noi paghiamo. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Cavedini, perché oltre a pagare noi cerchiamo oggi di fare un check-up della nostra memoria. Ci affidiamo a lui, ma vediamo che tipo di memoria ha il professor Cavedini. Prof, quando si deve pagare la TASI? Vediamo se lei è stato attento, se ha memoria lei. Siete già alla prova. Credo si debba pagare entro il 16 giugno, almeno nei comuni che hanno deliberato, giusto? Ha anche argomentato la risposta. I miei complimenti. Sono pronto. Bravo, sono ottimo. Nonostante uomo, si dice. Noi abbiamo letto questa ricerca che ha diviso un po' i nostri ascoltatori. Molti dei nostri ascoltatori, infatti, ci stanno scrivendo che si ricordano tutto nonostante siano uomini, ma noi siamo contenti di questo. Professore, che tipo di memoria ha attivato? Quale attiverà per ricordarsi di pagare? Ci sono tante memorie. In questo caso, per ricordare una scadenza, usiamo quella che si chiama la memoria intenzionale, che è un po' il ricordo di qualcosa che dobbiamo compiere nel futuro. In questo caso ci serve quella. E quindi ricordarsi di ricordare. Ricordarsi di ricordare, esattamente. Quanti tipi di memoria esistono, professore? Ce ne sono tanti. Tantissimi, ma quali sono quelle che utilizziamo di più? Allora, sicuramente sono più quelle, come dire, retrospettive, quelle che ci consentono di recuperare le informazioni che abbiamo archiviato nel nostro cervello. E qui fondamentalmente ce ne sono di due tipi, per semplificare: quella a breve termine, che sono una specie di spazio, di magazzino di limitata capienza, dove le informazioni risiedono per un poco tempo, anche se le possiamo mantenere un pochino di più, però generalmente è uno spazio ristretto che dura poco. Oppure abbiamo la memoria a lungo termine, no? Quella che ci fa ricordare molto bene tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita, dove le informazioni restano anche anni e anni e anni. L'importante è che siano informazioni un po' complesse, integrate tra di loro, quindi le informazioni più importanti, più salienti della nostra esistenza. 800 24 00 24, oggi testiamo la nostra memoria. Vi abbiamo anche chiesto quali strategie adottate per ricordare tutto, dalle scadenze ma anche gli appuntamenti, le cose da fare. Pianificate o improvvisate? Vi fidate dell'agenda o dei vostri neuroni? Chiamateci, intervenite, perché oggi testiamo proprio la vostra ma anche la nostra memoria. E a proposito, posso, Deborah, fare un po' la, certo, perfida? Voglio mettere alla prova i nostri ascoltatori. Intanto due cose: direi di salutare, di ricordarci, di salutare gli ospiti che prima abbiamo brutalmente interrotto con la chiusura della prima parte del programma, Cristiano Dell'Oste, Mirko Mion. Ma volevamo mettere alla prova i nostri ascoltatori per capire se hanno ben compreso, se si ricordano le indicazioni che ha dato il professor Cavedini. Per memorizzare le scadenze, qual è il tipo di memoria che va attivata? Ricordatevi il termine che ha indicato il professor Cavedini. Noi ce lo siamo scritti per ricordarlo. Certamente. E senti, chi è che indovina? Che cosa? Apriamo la libreria? O di cuore o di denari, certo, o di cuore e denari entrambi. Benissimo. 800 24 00 24, abbiamo già in linea con noi Mario da Bergamo e Giovanna da Napoli. Professore, se dovessimo rappresentare graficamente la memoria, tracceremo una linea che sale in corrispondenza dei primi anni di vita e poi scende gradualmente. Tutti hanno infatti la percezione che col passare degli anni la memoria giochi più facilmente qualche scherzo, ma dimentichiamo più facilmente o facciamo più fatica teneramente a ricordare? Perché sembra un gioco di parole, professor Cavedini, ma qui sta la differenza. Allora, innanzitutto diciamo che non tutti invecchiamo allo stesso modo, però purtroppo per tutti il cervello invecchia con gli anni, e questo è determinato dal fatto che esiste un processo della morte delle cellule del cervello che è geneticamente programmato, quindi, come dire, non lo possiamo, sì, influenzare, e che inizia, pensate, fino dai 30 anni in poi, quindi già da giovani, quando ancora non notiamo i primi segnali, in qualche modo lì iniziamo la fase calante, al punto tale che una persona che è attorno ai 70-75 anni ha anche un volume, un peso del cervello minore, quindi c'è proprio un deterioramento, un deperimento che evidentemente non è uguale per tutti. Oltretutto si creano anche problemi non soltanto nel numero delle cellule, ma anche dell'abilità che queste cellule nervose hanno di ricordare e soprattutto di recuperare le informazioni memorizzate. Quindi è prevalentemente un problema non di storaggio, di immagazzinamento delle informazioni, ma soprattutto di rievocazione delle informazioni di cui la nostra memoria è custode. Professore, a proposito di memoria, lei lo sa, abbiamo messo alla prova i nostri ascoltatori, abbiamo detto quale tipo di memoria bisogna attivare per ricordarsi le scadenze, 800 24 00 24, ma si sono subito ricordati di chiamare il nostro numero verde, esatto, i nostri amici Mario da Bergamo e Giovanna da Napoli. Precedenza, Deborah? Siccome Mario è un cavaliere, noi daremo la precedenza a Giovanna da Napoli, che ringraziamo e salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Mi sentite? Sì. Noi la sentiamo benissimo, Giovanna. Allora, io ringrazio il cavaliere e ringrazio voi, perché tramite voi io riesco a stare al passo col fisco. Vede, perché? Tutte le vostre, siccome quando lavoro ho la possibilità di ascoltarvi per radio, quindi io tutto quello che conosco lo devo a voi. Giovanna, e alle altre trasmissioni. Allora, anche se non l'abbiamo messa alla prova con il quiz, il libro della libreria, no, di Cuore Denaro. Penso che il dottore abbia detto ricordare di ricordarsi. Penso che abbia detto. Sì. Ha detto proprio un termine. Giovanna, ma lei è più una pianificatrice o un'improvvisatrice? Oltre a fidarsi di noi, lei segna tutto in agenda, fa ricorso al... Allora, quando andavo a scuola io bisognava imparare trascrivendo, rileggendo, e gli appunti restavano. Vengo da una generazione, pur avendo 53 anni, però la storia e la geografia veniva imparata, trascritta, messa da qualche parte e poi ogni tanto si andava a rileggere. Io ancora oggi faccio questo, trascrivo tutto a mano. Mm-hmm. E questo Giovanna l'aiuta a fissare allena la memoria perché allena fissa l'attenzione. Chiediamo... Perché vedo la difficoltà con i miei figli, che sono la nuova generazione di tutto fatto digitali. Veloce, non ricordano niente. I nativi digitali. Vedi come adesso Giovanna apre il libro, non ricordano niente, sono sempre davanti a quel computer, sono sempre sui videogiochi, smanettano. E c'è la professor ricorda. Cavedini, anche lei ha dei figli. Assolutamente sì. Ecco, e la loro memoria viene in qualche modo danneggiata da questo essere sempre connessi? Siamo stati più fortunati noi, a cui è stato insegnato di prendere appunti, scrivere, insomma fissare l'attenzione per portare a mente? Allora, come ogni stimolazione che ci viene dal mondo, bisogna sempre saperla prendere con le dovute cautele, perché sicuramente questo bombardamento di informazioni, di modalità di gestire anche il nostro cervello è molto utile, può portare, come dire, all'utilizzo anche di risorse in più, però non ci deve far dimenticare di saper allenare il nostro cervello da giovani come da vecchi nel modo opportuno, quindi non semplicemente rintracciando un'informazione su internet se non ci viene in mente, ma imparando anche un pochino a ricordarcela. A Giovanna, la nostra ascoltatrice, per la quale spezzerei una lancia a favore del libro in dono, è che anche se non si è ricordata il nome specifico della memoria di... Che lei non dirà ora, vero, professore? Che io non dirò per l'informatore, per lo ascoltatore successivo, però lei quantomeno si è ricordata il numero di telefono della trasmissione e ha utilizzato un altro tipo di memoria che si chiama memoria di lavoro, che è quello che ci consente, come dire, di ascoltare un numero, di ricordarcelo e almeno per il prossimo minuti di poterlo fare senza problemi. Vedi? Quindi il libro a Giovanna si... Quindi se l'è meritato almeno in questi termini. Anche Mario ha ricordato il nostro numero verde, che io voglio ripetere, 800 24 00 24, perché è facile, ma soprattutto vi permette di mettervi in contatto con noi, di parlare della vostra memoria, perché facilecca se avete qualche dubbio, se dimenticate spesso agende, cellulari, perdiamo un sacco di tempo nell'arco della giornata a ritrovare quello che abbiamo perso. Io tra l'altro negli ultimi tempi scrivo molto di più, perché forse ho più cose da fare, ma in passato, diciamo, non avevo bisogno di fissare su carta certe cose. Invece io veramente mi affido ai miei neuroni. Allora, Deborah Agenda, Nico improvvisatrice, il professor Cavedini ci racconterà, perché ciascuno di questi profili ha dei punti di forza e alcuni di debolezze e si può sempre migliorare. Mario, buongiorno, il nostro cavaliere di oggi. Sì, buongiorno, Mario da Bergamo, 54 anni. Allora, io sono un po' trasalito quando ho sentito quello che avete detto sulla memoria, perché sono proprio l'opposto. Riesco a ricordare soprattutto numeri, strade, titoli dei film, titoli dei libri, registi. Faccio più fatica a magari memorizzare una trama di un film dopo un po' di tempo. In compenso ricordo il numero di telefono fatti nel passato, magari frequentemente, anche a distanza di anni. Mario. Professor Cavedini, qua abbiamo quasi un fenomeno, nonostante uomo, ma no, adesso quella cosa lì, uomini e donne, è una cosa che abbiamo molto letto ricorrente, così. Però, Vi voglio professor Cavedini, no, poi le leggo il messaggio di Simonetta. Mario usa sempre una memoria invece più di tipo sensoriale, cioè la sua memorizzazione è molto basata sulle informazioni che arrivano dai sensi, in questo caso la vista, piuttosto che quando si compone un numero, più che non ricordarci i numeri stessi, ci ricordiamo i movimenti del dito sulla tastiera del telefono. E in qualche modo poi il risultato è lo stesso, ma utilizzando questa memoria un po' più di tipo sensoriale, che ci aiuta molto nell'orientarsi nello spazio ed avere una panoramica immediata dell'ambiente in cui ci troviamo. vogliamo, immaginiamo nel ricordarci una strada spesso e volentieri, no? Quando dobbiamo girare andando in macchina piuttosto che no. Quindi è una memoria molto molto molto utile che serve proprio a gestire tutti questi pezzi. Quando invece si chiede uno sforzo di memoria, diceva, quando devo leggere o sapere una trama di un film, allora lì la memoria sensoriale non è sufficiente, bisogna attingere ad altre forme di memoria e lì qualche lacuna un pochino più appare. Però è estremamente funzionale questo modo di procedere. Allora, prima di andare a descrivere i profili di chi usa spesso l'agenda per ricordare, di chi invece si affida ai propri neuroni, voglio leggervi il messaggio di Simonetta. Sì. A proposito della memoria degli uomini. L'unica volta che mio marito si è ricordato che bisognava pagare l'IMU era l'anno in cui l'IMU è stato abolito, non si doveva pagare, dopo aver ignorato per anni che esistesse. Per fortuna io lo sapevo. E ci dice anche bravissime. Professor Cavedini, che dire? Degli uomini è affidarci alla memoria delle donne. Questo è l'insegnamento della giornata di oggi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Professore, dicevamo, improvvisatori o utilizzatori di agende e tutto quello che io dico agenda, ma c'è chi anche mette la sveglia sul cellulare, esatto, vero, poi ci sono le app, modalità. C'è tutta la tecnologia che aiuta. Google un po'. Agenda c'è anche, ci segnalano gli ascoltatori che io non conoscevo, poi andiamo a curiosare senz'altro. E quindi, professor Cavedini? Nato, nel senso che io l'abbiamo un po' persa, professore, ripeta un po' perché sì, adesso sì. Io sono un pianificatore, tendo fondamentalmente a pianificare perché sennò mi perdo, quindi sono molto più vicino a Deborah da questo punto di vista. Però pianificatori o improvvisatori non è che lo si diventa, ma lo si nasce, no? Cioè, chi si affida prevalentemente alla parte razionale del cervello, chi ha quella invece più strettamente emotiva. Il problema è un po' sempre lo stesso, non c'è il modo giusto e il modo sbagliato, bisogna stare attenti a sollecitare, a stimolare la parte che non ci viene spontanea, quindi trovare ad un giusto compromesso, perché ognuna di queste due situazioni ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Ce ne dica un paio. Ad esempio i pianificatori, che fondamentalmente temono di perdere un po' il controllo delle cose che temono di non ricordarsi, corrono il rischio di non allenare troppo la propria mente, no? Quindi a furia di fare elenchi, a furia di affidarci un po' all'agenda, a tutti i nostri post-it che ci mettiamo ovunque, mettiamo un pochino in stand-by la nostra memoria, e questo poi può ritorcersi in altri ambiti della vita, per cui non perdiamo una scadenza, però facciamo fatica a ricordarci altre cose magari della nostra vita personale, eccetera. E quindi questo sicuramente porta un vantaggio, ma bisogna fare in modo di allenare anche la parte che non utilizziamo. Dall'altra parte gli improvvisatori invece sono una frana, sono un po' più miopi per il futuro, cioè gestiscono molto, sicuramente stanno meglio forse da un certo punto di vista, perché non si stressano con le scadenze, però non allenano un po' tutta la parte della pianificazione, tutta la parte della soluzione dei problemi. Ma professor Cavedini, vuole mettere quando finalmente io mi ricordo di fare quella la cosa che mi ero detta, ricordati Nico che devi fare, devi chiamare, io veramente un'iniezione di autostima. A proposito di neuroni in panchina, Bruna ci scrive: è vero che la famosa lista per ricordare la spesa o altro non aiuti i nostri neuroni a rimanere vigili? Tu pensa ai poveri ascoltatori, prima diciamo fate la lista della spesa per risparmiare, quindi comprate solo quello che è necessario, poi facciamo la puntata sulla memoria e diciamo loro che non è utile farla perché noi abbiamo i neuroni detto, non però, si allenano. Prima fate la spesa e poi decidete la lista di quello che volete comprare. Non è necessario, però non abbiamo detto scrivete tutto, abbiamo detto la lista e uno può tenerla anche a mente. Faccio io. Salvato in corner, professor Cavedini. Faremo una puntata sulla confusione, forse ci aiuta. Lei verrà? Ma se mi invitate più che volentieri. Certamente. Allora, Sara ci scrive: come memorizzare meglio ciò che si studia? Sara o è vicina a un esame o ha una figlia o un figlio in prossimità di maturità. Professor Cavedini. Ci sono tanti metodi, però fondamentalmente darei due suggerimenti. Non è tanto importante quanto uno studia in modo non concentrato, ma la massima memorizzazione coincide con la massima concentrazione, piuttosto quindi pause frequenti, brevi, ma sempre essere sul pezzo, perché quegli studenti a qualsiasi livello che studiano ore e ore su un libro ma la testa è altrove, sicuramente non li aiuterà decisamente per nulla. 8 secondi prima dei saluti, Paolo dalla provincia di Milano, qual è la memoria alla quale faceva riferimento il professor Cavedini? Me lo sono quasi dimenticato. Buongiorno a tutti. Paolo, veloce che stiamo chiudendo. Memoria intenzionale, se non sbaglio. Bravo Paolo. si apre la libreria di Cuore e Denari, a Paolo invieremo un bel libro due libri, sulla dai. Dieta e naturalmente la guida sulla Tasi, e possiamo fargliela mancare. Grazie professor Cavedini. Grazie a voi. Buona giornata. A Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi, Marco Lombardo, a domani. Cuore e Denari.